Stati Uniti, Election Day, testa a testa negli stati chiave, per ora non c'è un vincitore. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Election Day will also look very different this year. We're going to get a result, maybe before midday. So when will the 2020 election be decided? Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano. Anche noi quest'oggi dedichiamo quasi interamente la puntata allo stato dell'arte, il punto della situazione sullo spoglio dei voti dell'importantissimo appuntamento elettorale statunitense. La squadra, Antonio Tagli, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, in regia c'è Valeria Bernardi. I numeri 349-238-6666 per domande e commenti, sms, whatsapp, social, facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Oggi proveremo a fare il punto e a raccontarvi cosa sta accadendo in queste ore, in questi minuti, negli stati chiave. Con una precisazione, molto ragionevolmente, nemmeno stasera sapremo il vincitore, chi sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca. Con una serie di conseguenze, una sorta di limbo giuridico-istituzionale che gli Stati Uniti si apprestano ad affrontare nelle prossime ore e qualcuno dice addirittura nei prossimi giorni. 349-238-6666 e noi intanto sfogliamo i nostri dossier. Il primo ci porta in Libia perché Stephanie Williams, capo della missione di sostegno in Libia delle Nazioni Unite, ha dichiarato che le due fazioni in lotta hanno concordato per un piano per l'implementazione dell'accordo del cessate il fuoco raggiunto il mese scorso a Ginevra. Sostanzialmente i colloqui promossi dall'ONU si erano svolti in Marocco, in Egitto, in Svizzera. Adesso la commissione 5 più 5, che riunisce 5 esponenti del governo di Tripoli, 5 di quello di Tobruk, si è riunita in territorio libico, dove nell'oasi di Ghadames, siamo a 450 km circa a sud-ovest di Tripoli, lontano dalle basi militari di qualsivoglia fazione. Sostanzialmente la Williams ha dichiarato e ha sottolineato che le due parti, perché l'aspetto militare bellico è fondamentale, hanno concordato nell'istituzione di un sottocomitato militare per sorvegliare il ritiro delle milizie verso le rispettive basi. E questo evidentemente è il primo passo per poi lasciare correre, come dire, a briglia sciolta quelli che saranno i colloqui politici veri e propri. Se le milizie in Libia non fanno passo indietro, evidentemente nemmeno la politica potrà fare un passo avanti. Il secondo dossier che stiamo tenendo d'occhio sono meno del solito quest'oggi, gentili ascoltatrici e ascoltatori, perché le elezioni statunitensi stanno fagocitando evidentemente i nostri sforzi. Ricordate di quella nuova proposta di legge sull'aborto introdotta in Polonia? Ecco, parecchio controversa, ha dato esito a varie proteste di piazza. Il governo polacco ha ritardato l'entrata in vigore proprio di questa legge. Il punto, diciamo, sostanzialmente sarà che adesso l'aborto, che diventa molto più difficile, e secondo le ultime statistiche l'80-90% a seconda delle statistiche degli aborti adesso messi in atto in territorio polacco sostanzialmente diventeranno illegali, diventa una battaglia a tutto campo proprio tra la società civile e il governo polacco. Questo è un altro dossier ovviamente che vi abbiamo raccontato e continuiamo a tenere d'occhio. Adesso però, siccome arrivano un sacco di messaggi già al 349-238-6666, vi sottopongo la nostra copertina per andare dritti al cuore della puntata di quest'oggi. Siamo pronti per grandi festeggiamenti. Stiamo vincendo ovunque. Dobbiamo essere pazienti e aspettare lo spoglio dei voti. Non ci aspettavamo di vincere in Florida. Stiamo vincendo con grande distacco. Stanno contando i voti. Sembra che vinceremo in Pennsylvania. We've clearly won North Carolina. Abbiamo vinto in North Carolina. We're feeling real good about Wisconsin and Michigan. Siamo molto ottimisti su Wisconsin e Michigan. This is a fraud. Questa è una frode. On the American public. Alle spese del popolo americano. This is an embarrassment to our country. È imbarazzante per il nostro paese. We were getting ready to win this election. Frankly, siamo pronti per vincere queste elezioni, anzi. We did win this election. Noi abbiamo già vinto queste elezioni. It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. Non spetta né a me né a Donald Trump dire chi ha vinto le elezioni. That's a decision of the American people. È una decisione del popolo americano. So we'll be going to the US Supreme Court. Ci rivolgeremo alla Corte Suprema. Every time I walk out of my grandpa's house up in Scranton, he yelled, "Joey, keep the faith." Quando andavo a casa di mia nonna, mi diceva sempre di non perdere la speranza. And my grandma, when she's laughing, yelled, "No, Joey, spread it." Sì, fiducioso, mi ripeteva. Keep the faith, guys. We're gonna win this. Quindi abbiamo fiducia. Vinceremo. Così poche ore fa hanno parlato ai propri sostenitori, ai propri fan, i due contendenti per la Casa Bianca, Joe Biden e Donald Trump. 349-238-6666, tra i tanti messaggi, uno interessante: comunque, chiunque vinca non sarà completamente riconosciuto, troppo poco il vantaggio. Buongiorno e ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano a Marta Dassù, direttore di Aspen Institute Italia. Dassù, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a lei per essere con noi. Questo è forse lo scenario che molti analisti, ma anche diciamo in campo economico e finanziario, non volevano vedere, cioè l'incertezza. Il testa a testa è una sorta di limbo politico e forse anche giudiziario che potrebbe proseguire per alcune ore, alcuni giorni, qualcuno dice addirittura una settimana. E che tipo di scenario è? Se lo aspettava, Marta Dassù? Beh, credo di sì, ne abbiamo discusso per settimane, un scenario di testa a testa con un'elezione contesa come è questa sul filo del rasoio e quindi la possibilità di appelli giudiziari, riconteggi, diciamo uno scenario allargato tipo Florida 2000, la famosa contesa tra Bush e Al Gore. Sì. Va detto che la tendenza dalla notte in poi vede Biden in rimontaggio, in rimonta. Sì, sì. Adesso è passato leggermente in vantaggio in Michigan, in Wisconsin, probabilmente Nevada e l'Arizona. In questo scenario quello che conterà è soprattutto se in Michigan e in Wisconsin riesce a vincere con un distacco di oltre mezzo punto, perché a quel punto non scatterebbe automaticamente il riconteggio. E se tenesse appunto Arizona e Nevada e vincesse i tre stati che ho appena citato, sì, allora non avrebbe bisogno neanche della Pennsylvania, dove il processo sarà lungo perché, come sappiamo, con una sentenza della Corte federale si è deciso che si accettano i voti postali entro venerdì se targati il 3 novembre, sì, se imbucati diciamo così, sì, il 3 novembre. Sì. Quindi mi sembra che la situazione sia questa, siamo tutti appunto sospesi perché quel che accadrà negli Stati Uniti è comunque fondamentale per il resto del mondo. Ecco, grazie alla sua competenza e al suo occhio privilegiato di osservatrice sugli Stati Uniti proviamo a mettere il grandangolo, perché chiunque sarà il presidente, l'inquilino della Casa Bianca, è evidente che alcuni giochi di potere, rapporti di forza rimarranno tali e quali, altri potrebbero cambiare, penso all'approccio, alla relazione con l'Europa, ma soprattutto per esempio al grande antagonista, la Cina. Ecco, in caso di cambio di colore, per esempio, vede un sommovimento nelle principali direttive lungo le quali la Casa Bianca si è mossa negli ultimi 4 anni, relazioni con la Cina, disimpegno del Medio Oriente, rapporti tormentati con NATO per esempio e con Europa? Ma nello stile, se dovesse vincere Biden, chiaramente cambierà molto, perché Trump ha adottato questo approccio del tutto peculiare suo, che solo una persona come lui poteva tentare di essere la persona che fa i grandi accordi o i grandi disaccordi, ma insomma in modo unilaterale e molto personale. Biden, che è un politico di lungo corso, presidente della Commissione Esteri e così via, avrà un approccio più tradizionale, però sulla questione Cina esiste un consenso bipartisan negli Stati Uniti, è il grande rivale sistemico dell'America, e quindi agli europei, sì, in ogni caso, anche se con stili molto diversi, verrà chiesto di non disallinearsi dagli Stati Uniti su alcuni dossier centrali. Penso per esempio al 5G, sì, le comunicazioni strategiche, e penso anche a tutta la questione economico-commerciale. Quindi su questo non credo che ci saranno differenze fondamentali. Per noi esisterà il problema di come commisurare in un certo senso gli interessi economici e commerciali che abbiamo con la Cina e il problema sicurezza che ci lega fortemente agli Stati Uniti. Ma questo è uno dei lasciti di Trump, ha cambiato il discorso americano sulla Cina in modo molto, molto deciso, direi. Va poi considerato, guardando i risultati elettorali, che se anche vincesse Biden, cosa che non è ancora sicura, ma insomma sembra favorito in questo momento, ma stiamo a vedere, se anche vincesse non avrà, a questo punto mi sembra abbastanza certo, il controllo del Senato, quindi sarà comunque il presidente di un governo diviso, per così dire, e avrà quindi grandi difficoltà ad implementare un'agenda legislativa. Quindi questo è un altro punto da tenere molto presente, io credo. Assolutamente. Biden in linea di principio farà una grande apertura agli europei, cioè dirà che l'America è tornata a vedere in Europa un alleato essenziale. Ora, ha detto che Trump in realtà, al di là delle parole che ha detto e al di là del capitolo commerciale dove ha minacciato effettivamente una serie di dazi in modo importante e così via, però ha confermato gli impegni americani, in particolare nella NATO, quindi va anche visto lo scarto fra parole e fatti. Sì, sì. A volte dichiarazioni un po' colorite, poi insomma nella sostanza, sì, evidentemente. Nella sostanza sulla sicurezza, lei citava la NATO, sì, ha in effetti confermato gli impegni americani, ha ridotto un po', o ha detto che ridurrà un po' le truppe in Germania, ha spostato in parte in Italia, sì, in parte in Polonia, ma insomma fondamentalmente ha continuato a garantire la presenza americana in Europa in modo importante. Grazie mille a Marta Dassù, direttore di Aspen Institute Italia, per come al solito la fotografia molto incisiva e anche sintetica. Buona giornata e buon lavoro. Vengo subito ai vostri messaggi al 349-238-6666. Scusate, ero distratto, ma avete detto Biden in rimonta ieri notte, non era in vantaggio i 10 punti, ha ancora senso seguire i sondaggi, gentile ascoltatore, forse sì, si è distratto, ma lungi da me puntare il dito. Marta Dassù, ex sottosegretario, esperta di politica estera, direttore di Aspen Institute Italia, faceva riferimento ai cosiddetti stati della Rust Belt, qualcuno dice la ruggine deciderà, facendo riferimento a quella vecchia area industriale. Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. Wisconsin e Michigan vedono una leggera rimonta di Biden, Pennsylvania ancora di colore rosso, ma vuol dire che se i democratici dovessero guadagnare anche i consensi in Pennsylvania, a quel punto, come avete sentito anche da Sergio Nava prima nel GR, quel muro blu potrebbe garantire a Joe Biden l'ingresso alla Casa Bianca. Un altro aspetto che ha accarezzato Marta Dassù, non l'ha approfondito del tutto, lo facciamo adesso col prossimo ospite che è di casa, per così dire, sono i rapporti con l'Europa. Buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano, Gigi Donelli. Gigi. Ciao, buon pomeriggio, un saluto agli ascoltatori. Ecco, intanto ti sei ripreso dalla levatacce, perché a iniziare a trasmettere alle 6 del mattino per questa lunga maratona significa non hai dormito sostanzialmente, dillo. Ma la verità è che, come sai, quando si seguono degli eventi interessanti, poi l'adrenalina aiuta, sì, per cui magari ne riparliamo domani o quando, come hai detto, avremo risultato. E lì mi sa che allora c'è da strabuzzare gli occhi e stare svegli, esatto, per tanto tempo. Comunque, perché domani mattina alle 5 e mezzo saremo pronti, come sempre, a raccontare tutti gli sviluppi. Perfetto, così come so che sei pronto a raccontarci un aspetto che è importante e non, come dire, di poco conto. I rapporti con l'Europa, ci sono alcune dichiarazioni di capi di Stato europei, quasi tutti sembrano stare alla finestra ma con una leggera propensione per una vittoria democratica. Come leggere questo atteggiamento attendista dell'Europa? Beh, insomma, l'attendismo direi che è d'obbligo. Nel momento in cui, appunto, come stai raccontando, la questione si tocca su pochi voti. Ho sentito Marta Dassù, sono pienamente d'accordo con l'approccio, sono due persone molto diverse. Biden ha un profilo che da Vice President di Obama ha una lunga carriera nella Commissione Estera del Senato, come dire, è un uomo completamente diverso. Però attenzione, come dire, quali sono i veri nodi con l'Europa? E poi, piccolo inciso, l'Europa è una grande unione di 27 stati, poi magari ragioniamo sul fatto che l'Europa nel suo complesso non corrisponde ai singoli interessi delle nazioni. Esempio, il dossier ambientale, Parigi 2015, è stato uno dei grossi scontri con l'Europa, ovviamente in primo luogo con la Francia, che l'ha vissuta malissimo. Si dice Biden, tra le cose che farebbe, sarebbe appunto quello di ritornare, riportare gli Stati Uniti, diciamo, nell'accordo, per semplicità, ambientale 2015, e di riattivare il lavoro fatto nei confronti dell'Iran. Questo pare abbastanza assodato, cioè sì, sono due punti chiari. Ora, l'ambiente, per esempio, interessa a tutti, ovviamente, ma non nello stesso modo. Paesi come la Polonia, tanto per essere semplici, non hanno lo stesso tipo di interesse della maggioranza della politica europea. Detto chiaramente, i polacchi sono molto più interessati, visto che sono i grandi produttori di energia dal carbone, si trovano, inteso come governo ovviamente, sarebbero più naturalmente orientati a delle posizioni molto vicine oggi a quelle di Donald Trump. Quindi l'Europa ovviamente ha una questione sulla difesa che riguarda soprattutto la Germania. Come diceva Marta Dassù prima, non è accaduto un granché, tante parole ma non molto. Sì. L'Iran invece è un dossier molto spinoso, tu lo tratti spesso e sai che lì davvero la distanza in certi momenti è cosmica. Quindi è una, innanzitutto, da seguire. Credo che il corollario di tutti questi discorsi è un po' quello che venne fatto quando Trump si presentò al G7 di Taormina. Aveva un'aria piuttosto annoiata, è andato via prima, e Angela Merkel dice qualcosa come: beh, forse è tempo che l'Europa prenda in mano le proprie responsabilità. E questo è un aspetto interessante che richiama e, come dire, allude a un'unità europea di intenti, di politica estera, eccetera, eccetera, che sappiamo benissimo, lo racconti ogni settimana, che non sempre c'è, anzi a volte quasi mai, ecco, giusto per essere ottimisti. E quindi la chiamata alla responsabilità, come dire, ancora una volta è, e così rispondo a alcuni ascoltatori al 349-238-6666, c'è qualcuno dubbioso su seguire con tanta attenzione vicende oltreoceano, ma che impattano, gentili ascoltatrici e ascoltatori, in maniera inesorabile sulle vicende europee e anche su quelle italiane. E Gigi, un'ultima sollecitazione, perché se ho letto bene c'è una dichiarazione del premier sloveno che come dire, fa un plauso alla possibile vittoria di Donald Trump. Che cos'è? Come dire, una seduzione di carisma personale verso la Slovenia? È il fatto, beh, dato dei rapporti, come dire, relazioni quasi che sono abbastanza ovvie vista la famiglia, ma nello stesso tempo questo tipo di approccio è chiaramente quello, per esempio, del governo polacco oggi. Cioè, vediamo Salvini che da due giorni va, o da un giorno va in giro con la mascherina, cioè sono posizioni assolutamente legittime e raccontano che l'Europa, per fortuna, ha posizioni diverse al suo interno, e che ovviamente alcuni partiti e dunque alcuni governi sono molto più vicini alla speranza di una vittoria di Donald Trump. Grazie mille Gigi Donelli per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro, anzi no, mi correggo, buon riposo per il momento. Grazie Gigi, alla prossima. E no Gigi, non possiamo riposare adesso, dobbiamo raccontare le breaking su Trump, su Biden, si susseguono velocemente. Ha appena twittato Donald Trump e parla ancora di brogli. Sta commentando il probabile recupero di Joe Biden in alcuni stati come Michigan e Wisconsin. La scorsa notte afferma: ero avanti, spesso saldamente, in molti stati chiave, in quasi tutti quelli governati e controllati dai democratici. Poi uno a uno i vantaggi sono magicamente scomparsi, scrive Trump, nel momento in cui sono state contate discariche di schede a sorpresa. Molto strano. E poi un attacco ai sondaggisti, ancora una volta hanno completamente sbagliato. Torneremo anche su questi aspetti. Qualche giornalista, sentivo un po' di commenti su vari network, su vari radio, chiamano queste dichiarazioni di Donald Trump delle sgrammaticature. Io, a modestissima parere, c'è qualcosa di più. Non è una semplice sgrammaticatura andare a minare la credibilità delle istituzioni, di quei funzionari amministrativi che stanno facendo lo spoglio dei dati che adesso stanno dando ad Associated Press in primis e poi a seguire tutti gli altri grandi network. Forse non è prova di grandissima maturità istituzionale, ma è un mio personalissimo parere. E contano di più invece i vostri al 349-238-6666. Allora, c'è qualcuno che parla di politica estera, cerco di sintetizzare il messaggio. Trump, alleanza con Commonwealth, Giappone e Corea del Sud contro Cina e Unione Europea. Biden, alleanza con Cina e Unione Europea, guerra a tappeto. E così alcuni ascoltatori cercano di, come dire, mettere a fuoco quello che potrebbe essere il cambiamento della politica estera statunitense. Se vince Biden, e spero di interpretare bene il messaggio, in questo momento sto un po' litigando, ve lo confesso, con WhatsApp. Se vince Biden, spero i democratici pensino seriamente a mettere mano alle distorsioni del sistema elettorale assurdo che hanno e che continuano a avere. Diciamo che uno dei punti che francamente stupisce e ha fatto saltare sulle sedie a tanti analisti è pensare che nel 2020 ancora esiste il voto per posta, ritenuto assolutamente affidabile, ma molti si chiedono come sia stato possibile non arrivare a un sistema di conteggio elettronico in un paese, gli Stati Uniti, che vede uno sforzo incredibile da parte di alcuni elettori, soprattutto nelle zone rurali più remote, per andare a votare. E quindi evidentemente questa è una distorsione, è un mancato accesso al libero esercizio di voto che riguarda evidentemente tutti i cittadini, che siano di colore blu, che siano di colore rosso. In tutto ciò abbiamo fatto cenno a quello che è una sorta di limbo, sicuramente politico, potrebbe essere giudiziario se i repubblicani e Donald Trump adiranno alla Corte Suprema. E come stanno reagendo le borse in tutto questo? Le borse. Nessun luogo è lontano. (224) (213) (46) (47) (181) (171) non sto dando i numeri, gentili ascoltatrici e ascoltatori, ma sto cercando di districarmi anche tra la serie di proiezioni che i grandi network stanno dando, tra cui Associated Press, CNN, Fox News, Washington Post, New York Times, per citarne alcuni. Sostanzialmente Biden sui grandi elettori è in vantaggio, 224-213, alcuni dicono 227, qualcun altro addirittura AP 238, ma questo dipende dal metodo delle proiezioni, delle interviste che vengono fatte ai singoli stati. Quello che è preoccupante invece, a mio modestissimo parere, è quella situazione per cui, per esempio, al Senato abbiamo 47 per i repubblicani, 46 per i democratici, il che sostanzialmente imporrebbe all'inquilino della Casa Bianca una maggioranza, o risicato addirittura non avere il controllo del Senato, il che sarebbe ovviamente imporrebbe liturgie molto più farraginose per far passare magari leggi economiche o altri tipi di provvedimenti di cui gli Stati Uniti, ma non solo in questo momento di pandemia, ovviamente hanno bisogno. Andiamo negli Stati Uniti, lo facciamo con la voce di ospiti che ormai siete abituati ad ascoltare. Partiamo con i repubblicani. Woodrow Johnston, stratega della società McShane LLC di Las Vegas, Nevada, ha curato la campagna di Jim Marchant proprio in Nevada. Nel discorso di oggi Trump ha fatto intuire che i democratici stanno cercando di rubare le elezioni. Che cosa ne pensa lo stratega repubblicano? Sentite. Ieri mattina qui in Nevada abbiamo visto un aumento dei voti repubblicani, dice Woodrow Johnston, e le autorità hanno ricevuto un ordine di emergenza per estendere gli orari del voto. E in questo frangente si è vista molta confusione provocata dai democratici. Mandano ai seggi gente che dice di non appartenere a nessuna organizzazione politica, ma invece questi personaggi sono chiaramente affiliati a organizzazioni vicine ai democratici. Insomma, stiamo assistendo a scene del genere, e non solo in Nevada. I democratici non possono davvero vincere lealmente, quindi stanno facendo tutto quello che possono per vincere slealmente, e se non ci riescono stanno facendo di tutto per delegittimare il presidente Trump. Questa è la voce di Woodrow Johnston, stratega repubblicano. Andiamo dall'altra parte, andiamo al colore blu, quello di Dante Atkins, Washington DC, stratega democratico. Sentite come fotografa invece lui la situazione. In questo momento i democratici sono fiduciosi che Biden sarà dichiarato vincitore quando tutti i voti saranno stati contati. A questo punto crediamo che abbia vincato nel Michigan e di per sé questo è abbastanza. È leggermente in ritardo in Pennsylvania, ma ci si aspetta che i voti rimanenti, molti dei quali sono stati espressi per posta, lo sostengano pesantemente e ci aspettiamo che vinca il Stato. Crediamo inoltre che possa vincere la Georgia quando verranno contati tutti i voti di Atlanta, la capitale dello Stato, ma quelli non sono necessari per lui, ha abbastanza per vincere adesso. In generale siamo sollevati ma ancora delusi. Volevamo prendere il controllo del Senato e in questo momento non sembra probabile. Ma ci saranno due elezioni al Senato in Georgia a dicembre che decideranno il controllo e non appena queste elezioni saranno decise, i democratici faranno tutto il possibile per conquistare quei seggi. E così in una giornata così importante Dante Atkins ha deciso di cambiare lingua e di omaggiarci con il suo, devo dire, ottimo italiano, benché a distanza di tempo l'abbiamo peraltro tirato giù dal letto, quindi perdonerete qualche sbavatura. Queste le due fotografie dal campo repubblicano a quello democratico. E allora fatemi introdurre con piacere il prossimo ospite, che è Mario Del Pero, insegna storia della politica estera americana a Sciences Po a Parigi. Professore Del Pero, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Allora, ho provato a sottolineare quelle che a mio modestissimo parere sono alcune delle, come dire, nevralgie più forti in questo momento. Da un lato il voto postale, che sembra qualcosa assolutamente fuori tempo e che potrebbe costringere ad attendere l'esito per parecchio tempo. E dall'altro invece lo squilibrio colore della Casa Bianca, colore della Camera, in particolare del Congresso. Partiamo dal sistema postale. Quale fragilità vede? Perché Trump su questo ha battuto molto. Allora, è un sistema che varia e variano di molto le regole da Stato a Stato, quindi dobbiamo fare molta attenzione. Variano le possibilità di utilizzarlo, variano le tempistiche per utilizzarlo, variano le modalità di conteggio. Alcuni Stati, tra cui la Pennsylvania, prevedono il conteggio di questi voti finali solo a scrutinio esaurito dei voti depositati nelle urne fisicamente. E il voto postale, sostiene Trump, sostengono i repubblicani, si presta a manipolazione, a brogli maggiori. Ci sono stati dei casi, devo dire che gli studi sistematici e anche le inchieste fatte dalle agenzie del governo federale smentiscono queste accuse, però ovviamente è rimasto in sospeso il voto. Trump ha cercato immediatamente, no, di proclamarsi vincitore, di delegittimare preventivamente delle modifiche delle tendenze di voto che dovessero avvenire, che stanno in realtà avvenendo, perché ora cominciamo ad avere dei dati sotto gli occhi che indicano che Biden potrebbe aver trovato, diciamo così, un percorso molto stretto, molto più stretto di quanto non si immaginasse, molto più impervio per arrivare alla maggioranza dei 270 grandi elettori. Sì, percorso che sta illustrando il professor Mario Del Pero, Sciences Po, storia della politica estera americana, che passa attraverso la regione, l'area della Rust Belt, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. Sui primi due, leggero vantaggio di Biden, il terzo stato, la Pennsylvania, sembra ancora propendere per Trump e per i repubblicani. È strano, professore, e le chiedo anche di dare un occhio alla storia, come il presente, l'attualità e il futuro della più grande potenza al mondo si giochi in tre stati, in un'area che come dire, è anche ricca e pregnante di una certa storia industriale, e quasi come fosse una fotografia dalla quale, non lo dico evidentemente apposta, bisogna scrostare un po' di ruggine. Sì, c'è quello, stiamo attenti perché sono in ballo anche stati del sud e del sud-ovest, una parte in gioco, un ruolo importante lo potrebbe giocare l'Arizona, lo sta giocando l'Arizona, in Georgia c'è una rimonta di Biden e manca lo scrutinio di seggi nelle contee, diciamo così, immediatamente a ridosso dell'area metropolitana di Atlanta, che dovrebbero essere a maggioranza democratica. Dopodiché quello è il cuore deindustrializzato, ma di quel poco di manifatturiero che resta degli Stati Uniti, quello è un cuore particolare dentro cui abbiamo dei grandi insediamenti universitari, anche dei centri di ricerca di eccellenza, abbiamo una consistente presenza di afroamericani nei grandi agglomerati urbani, pensiamo a Columbus, Ohio, Milwaukee, Detroit ovviamente, quindi è un microcosmo, diciamo così, di tante delle Americhe che fanno l'America, ed è quel microcosmo che dalla globalizzazione, se vogliamo un po' semplificare, quello che ha preso le botte più pesanti, e quindi, come dire, ci dice anche molto del modo in cui gli Stati Uniti si relazionano al mondo. un libro molto bello di una collega, si chiama Christine Hoganson, che è sul Midwest, che rappresenterebbe anche, no, nell'immaginario il cuore pulsante dell'America, ma che è un cuore che è sempre stato globalizzato e quindi dal resto del mondo è sempre stato influenzato, condizionato in una certa misura in tempi più recenti anche duramente colpito. Sì. State ascoltando la voce del professor Mario Del Piero, storia della politica estera americana a Sciences Po, visto, professore, che è in qualche modo abbracciato anche un aspetto prettamente letterario. Tra pochissimo, subito dopo la pausa, le farò sentire la voce di Ben Fontaine, scrittore e giornalista, scrive, abita a Dallas, in Texas, ha vinto il Penn Hemingway Award e ha scritto un libro, America brucia ancora, ormai risalente alla campagna elettorale, quella vecchia, del 2016, in cui sostanzialmente dice che gli Stati Uniti debbano ripensarsi completamente, e credo che sia un ottimo spunto per iniziare e poi chiudere l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. A questo punto però la prego di pazientare un attimo, andiamo sulle strade italiane e poi chiudiamo il ragionamento. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Come vi dicevo, mi sto districando tra i vari network, in primis ovviamente Associated Press, che danno i risultati e le proiezioni, mentre in corso lo spoglio della più importante elezione degli ultimi anni, non soltanto negli Stati Uniti ma a livello internazionale. 238 Joe Biden, 213 Donald Trump, sto parlando dei grandi elettori. Al Senato 47 contro 47, questo è quel limbo a cui facevo riferimento, che potrebbe, come dire, gettare il prossimo inquilino della Casa Bianca, non dico in un impasse istituzionale, ma, come dire, non agevolare particolarmente alcune sue scelte e mosse strategiche. Alla Camera invece 189 contro 185, rispettivamente blu e rosso, ma questo è Fox News. Torno al professor Mario Del Piero e lo invito ad ascoltare con me la voce e il commento di Ben Fontaine da Dallas, Texas. America brucia ancora è il suo ultimo libro, edito in Italia da Minimum Fax. Sostanzialmente dice, gli Stati Uniti sono in una profonda crisi esistenziale. Sentiamo insieme. Sì, la tesi del mio libro è che gli Stati Uniti sono stati costretti a reinventarsi per due volte nella loro storia. La prima volta è stata dopo la guerra di secessione, il cui effetto è stata l'abolizione della schiavitù e quindi un radicale cambiamento nella struttura della società americana. La seconda reinvenzione degli Stati Uniti è seguita alla Grande Depressione, nei primi anni 30, e in quel caso il risultato è stato il New Deal di Franklin Delano Roosevelt. Bene, secondo me abbiamo ormai raggiunto un terzo punto di svolta, una nuova crisi esistenziale dell'America. Le ineguaglianze nella distribuzione delle ricchezze e nella distribuzione del potere hanno raggiunto tali proporzioni che, se vogliamo continuare come una democrazia credibile, c'è bisogno di una ristrutturazione dalle fondamenta del contratto sociale americano. Una redistribuzione del potere, in altri termini. Ritengo che l'elezione di Donald Trump nel 2016 abbia accelerato questo processo e penso che siamo ancora nel mezzo di questa crisi esistenziale. I risultati devono ancora vedersi. Questa è la voce, il quasi sconfortato tono nel descrivere i suoi Stati Uniti di Ben Fontaine, scrittore e giornalista, torno da Mario Del Piero per capire se è d'accordo su questo tratteggio molto in chiaroscuro, no? Ma io credo di sì, e il voto e i risultati che stiamo osservando ce lo mostrino bene. È un'America divisa, è un'America anche in sofferenza, una sofferenza della democrazia statunitense, di cui è responsabile Trump in una certa misura ne è il prodotto più che la causa. Un'America polarizzata, un'America spaccata, che esce ulteriormente divisa da questo voto. Anche se Biden, come pare, con mille cautele, sì, come pare, dovesse ottenere i voti sufficienti per andare per andare alla Casa Bianca il voto verrà contestato, innanzitutto perché è un voto molto stretto, molto di misura, potrebbe addirittura finire con 270-268, tanto per intenderci. Quindi avremo un lungo, come dire, una lunga vertenza legale, almeno fino al 14 dicembre, quando si riuniscono i grandi elettori. Il Senato quasi certamente resterà in mani repubblicane, quasi scontato, e il potere giudiziario, le corti popolate da giudici giovani, quindi destinati a rimanere in carica a lungo, conservatori, nominati con grande efficacia da quest'ultima amministrazione Trump, costituiranno Senato e corti un contropotere molto forte a quello dell'esecutivo. Quindi andiamo, diciamo così, in un paese diviso, fratturato e altamente conflittuale, ad alta conflittualità, abbiamo un sistema politico, un governo a sua volta diviso, legislativo, esecutivo, un potere giudiziario spostatosi molto in senso conservatore, originalista. E tutto ciò non lascia, diciamo così, non permette di essere ottimisti per i mesi e gli anni a venire. State ascoltando La Voce, il commento di Mario Del Pero, storia della politica estera americana. Science Po 349-238-6666 invece per i vostri commenti. Qualcuno dice: Stati Uniti in profonda crisi esistenziale, non sono mica i soli. Qualcuno usa l'epiteto anatra zoppa, facendo riferimento a quando il colore del congresso o di camera è diverso da quello dell'inquilino della Casa Bianca, quindi magari un congresso dichiaratamente repubblicano, come diceva evidentemente repubblicano, come diceva Mario Del Pero, e poi invece un presidente democratico, il che potrebbe costituire un problema proprio nella facile governabilità del paese. Professore, siamo quasi in chiusura. Non mi è chiara una cosa: quando Donald Trump dice è in corso una frode, ma in realtà ce l'ha spiegato molto meglio Woodrow Johnson, l'abbiamo fatto ascoltare la sua voce poc'anzi, e che Donald Trump che dice adirò alla Corte Suprema, esattamente che cosa può contestare? Cioè, sulla base di che cosa denuncia un broglio? Perché la CNN, dando questo titolo, dice without basis, cioè dice no, è infondata questa cosa. Beh, io credo innanzitutto che laddove i risultati saranno molto stretti, il margine di vittoria dei democratici di Biden sarà molto, molto limitato, come ad esempio pare sarà in Wisconsin, verrà chiesto immediatamente un riconteggio dei voti e verranno contestate delle schede nelle quali la volontà dell'elettore non risulta non espressa con sufficiente chiarezza e così via. E da lì verranno richiesti dei riconteggi ed eventualmente si cercherà di rimandare la questione alla Corte Suprema, però la Corte Suprema si pronuncia per chiudere un conteggio, lo sappiamo bene come fu in Florida nel 2000, non per contestare un riconteggio che è stato fatto, e in questo caso l'unica possibilità per Trump sarebbe un riconteggio. Dopodiché, se mi permette 10 secondi, certo. Trump non esce sconfitto da questa elezione, questo mette un ulteriore ostacolo su un'eventuale futura amministrazione Biden. Trump ha ottenuto un significativo risultato elettorale, ha conquistato milioni e milioni di voti in più rispetto al 2016, ampliando, diciamo così, un bacino elettorale che sembrava invece non potersi fisiologicamente non potersi ampliare. Quindi Trump rimane figura centrale della politica statunitense e dentro il partito repubblicano, e questo, come dire, alimenta, acuisce quelle divisioni, quelle fratture di cui parlavamo prima, perché l'era Trump non viene archiviata nemmeno in caso di sconfitta elettorale. A proposito di sconfitta elettorale, la lascio con un ultimo slogan, le chiedo uno slogan, professor Del Pero. Nel 2000, lei citava il 2000, ci fu il precedente Bush-Gore, in cui a un certo punto però Gore evitò di adire al ricorso della Corte Suprema e sostanzialmente dichiarò ok, ha vinto il mio avversario. Questa può essere la chiave, il riconoscimento della vittoria senza andare, come dire, a impantanare anche la macchina di controllo giudiziario e politica statunitense, potrebbe essere accolto peraltro in primis dai mercati ma anche dalla grande politica estera come con un sospiro di sollievo. È una possibilità secondo lei? Allora, è una possibilità se la vittoria di Biden è più ampia di come si prospetta ora. E potrebbe esserlo, perché in Pennsylvania mancano più o meno 1,5 milioni di voti da conteggiare, sono quasi tutti voti postali per la gran parte dell'area di Filadelfia, quindi Trump è avanti anche in modo significativo di 500,000 voti, però potrebbe esserci una rimonta, diciamo così, democratica. Sì. Se il margine di vittoria di Biden fosse ampio, non fosse in 270-268, in cui il collegio del Nebraska, il Nebraska 2 è decisivo, se la vittoria di Biden fosse più ampia, ecco, ci sarebbero meno margini per contestazioni. Se invece dovesse essere stretta, con risultati elettorali, con vittorie di misura in alcuni stati cruciali, a partire da Michigan e Wisconsin, prepariamoci da qui al 14 dicembre, quando si riuniscono i grandi elettori, prepariamoci a lunghe settimane di guerre legali, di trincee legali e di colpi bassi. È nei vicoli stretti che soffia forse più forte il vento, è un quasi proverbio di natura araba, ma credo che si presti molto bene a descrivere le prossime settimane, almeno politicamente parlando, evidentemente, di questi vantaggi così risicati che così efficacemente ha esposto il professor Mario Del Piero, che ringrazio. Storia della politica estera americana, Sciences Po. Professore, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a voi, buon lavoro. Allora, intanto sto buttando l'occhio ancora una volta a Associated Press, Fox News. Non ho molto da dirvi in più, nel senso che per AP è sempre 238-213, Senato in bilico secondo alcuni, leggermente repubblicano secondo altri. Chissà se dovremo aspettare molto per assistere a un'eventuale anatra zoppa. Sicuramente c'è da aspettare pochissimo per un conduttore quasi zoppo che viene cacciato malamente così da Valeria Bernardi. You're fired. Io vi ringrazio, vi lascio, vi ricordo peraltro che oggi in via eccezionale Effetto Notte con Roberta Giornano andrà in onda fino alle 23, vi lascio adesso a Focus Economia e Sebastiano Barisoni che tornerà a parlare degli Stati Uniti. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.